Un secondo dopo l'agguato in Libia, Romney ha attaccato Obama accusandolo di simpatizzare con gli aggressori. Questo Romney è davvero la lingua più veloce del West. Ehi, biondo! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana!